Allora, intanto avete qualcosa di pronto subito oppure intanto stanno arrivando altri sms, magari potrei mandare un disco e poi li leggiamo, eh? Ma cosa perché dite? No? Avete qualcosa di pronto al volo oppure se no tanto tempo un disco. Per Gem? Eh? Nothing man. Va bene, sì. Vai. Se ok, è andata. Allora via. Vai, sì. Vai di Seattle. Allora il Borchi alla chitarra, Aldo alla voce, Dado Maldestro al basso e Tongio alle percussioni. Questa è la Nottedo, signori. Divided with nothing left to subtract, the songs were spoken that can be taken back. Walk on his own with the falls he can't tell thinking. Futures are born, but in the past he slows and sinking. Caught the balls of lightning, curse the day he let it go. Yeah. applausi, applausi. Attenzione, guardate, guardate cosa avete fatto. Guardate cosa avete fatto succedere. Avete fatto arrivare la DJ Claudia. Avete fatto venire DJ Claudia, pensa a te. Cazzo. Block, block. Allora, Claudia, buonasera. Buonasera, buonanotte. Com'è? Torni dalla serata rock and roll? È un po' innesituto, eh. Ah, ecco, bene, perfetto. La Claudia gonfia! Evviva. Ma sei il mio idolo di lì. Ma chi, parli del Borchia? Lui è il mio idolo, lui dovrebbe fare l'attore. Lui sembra un po' l'allenatore nel pallone. No, no, no. Non so che ne è. Grande, va bene. E chi se ne frega? E che cazzo? Ma che cazzo me lo frega? Va posso andare di là a baciarlo? Vai di là a baciarlo, farci quello che accidenti ti pare. Io intanto passo un altro disco. In realtà a me capitò nel 1989 di conoscere i Kiss con il disco che stava uscendo in quel periodo, che era Hot in the Shade, e c'era una canzone che mi interessava particolarmente. Che hai spento il microfono? Sì, perché devi star zitta adesso. Aspetta, posso baciare in diretta il mio amico? E bacialo. Attenzione, questo è Ria Radio, uno dei momenti più alti del mondo. Perfetto, benissimo, ok. Grazie di questo, Claudia. Se vuoi restare, naturalmente un piacere. Questa è Prisoner of Love. Everybody, this is Glenn Hughes, and I am so sorry to hear All my friends at Rock FM are going off the air. Wow. Italians love this station. It's rock and roll. We love you. Peace. Glenn Hughes loves you. Questa era, dunque, tira giù il volumino del grazie, ok? Allora, questa era Psychotherapy, sono tornato allo studio di qua, allora ti dico di nuovo di spegnere il 3, gentilmente, è spento? Sei pronto a giurarlo? Perfetto, che sono due microfoni solo accesi? Oh, no, sì, solo due microfoni accesi, il 2, oh, ok, perfetto, ok. Allora, siete su Rock FM nella Nottedo, parte una jam, ci sono tutti qui dentro, assolutamente tutti, il Borchia mi ha fottuto dalle spalle e quindi andiamo, cioè, tutti, siamo qua, pronti, via, quando rock and roll. Quando il Borchia prende le spalle. Rock and roll. Edo, se sai dovresti seguirmi questa cosa. Sì, vediamo. Scusate. Oh, baby. Ma lascio un dubbio. Yeah. Oh, baby. Ma lascio un dubbio. in the street. I'm a hard case that's hard to beat. I'm your charity case, I'll mean to eat. I'll pay you on that time, yeah. We'll take you to the end of the line. Richard, also they say you got keep pushing for that fun and fame. You know it's only a game, but when it's just a game, it's either coming to crime. Yeah, everybody's doing the time. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please save me? Oh, oh yeah. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Oh, take me, oh, yeah! Stop in the chair of the city, your chamber, why? I'm here, can't quite remember. The sergeant general desires to breed. And I've been on a cigarette, but I can see you. Tell me what he's gonna believe. Down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please take me, oh yeah. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please take me, oh yeah. Take me down. Oh, baby, take me down. Oh, won't you please save me, oh yeah. Take me, oh, down. Take me down. Take oh, me down. Oh, take me down. Oh, won't, you please save me, oh yeah. Take me down. And the girls are pretty. Oh, won't you please save me, oh yeah. Good night!